Una botta forte, la prima mattina, mannaggia, omaggio svegliato. Ma chi se non porta, era solo una botta, verrebbe, oggi che ha già fa. E mi accorgo che oggi, mannaggia, fa niente, perché oggi è festa, oggi è casa Lucenzi. Casa Lucenzi, venavo dagli anni ogni anno, ci vè trovato. Nu Santuliano, New York o Parigi, oggi stiamo a festeggiare. E i problemi ci stanno, ma non fa niente, perché oggi è festa, oggi è casa Lucenzi. E mi ricordo la confusione in mezzo alla piazza, le bancarelle, l'illuminazione, la processione. Facciamo attenzione che passa, ma passa, Maronna di casa Lucenzi, eccola là. E mi ricordo quando era vaglione che la processione, un sacco di gente perché la montagna veniva e cattava castagne, castagne insertate con maglie caviglie della Maronna di casa Lucenzi. E mentre ripensa quando era creatura mi accorgo che sto un grasuto. Prende gli ugoni, che le castagne innanzi agli occhi, che le montagne. E che in America nessuno sa niente, ma io sono contento perché oggi è casa Lucenzi. E mi ricordo la confusione in mezzo alla piazza, le bancarelle lì.